Ringraziamo Anna Pavignano. Abbiamo ancora mezz'ora per concludere e poi inaugurare la mostra. Allora, sì, ci siamo? Ci sono abbastanza sedie, sì. Allora, alla mia sinistra, Shughri Said, che conoscerete tutti perché è un'attrice bravissima e è anche la portavoce dell'Associazione Migrare. Ed ha voluto regalarci anche, come dire, la gioia di essere nostra testimonial di emergenze di identità. Quindi l'onorevole Guido Melis. L'avvocato Ernesto Ruffini. E una persona speciale, l'onorevole Luigi Manconi. Ora, lascerei intanto dire qualcosa a Shughri e poi magari faccio delle domande io agli altri ospiti, se sei d'accordo. Grazie, Ebino. Buonasera a tutti. Faccio una breve... intanto comunque io sarò brevissima perché credo che ci siano autorevoli personaggi che possono darci contributi indispensabili per questa lodevole iniziativa. Questa iniziativa è un'iniziativa molto importante e noi abbiamo speranza che almeno faccia la scuola. Io ho preparato una relazione e questo, ho fatto anche le fotocopie che stanno sul tavolo dell'ingresso e chi ha voglia e piacere può andare a prendere e dare un'occhiata e in ogni caso sarà pubblicato integralmente i nostri siti Italia Razzismo, migrare.eu, articolo 21 e così via. Quindi avremo modo di consultarsi. Io sarò brevissima, come vi ho detto, e volevo dirti qualità di anche testimonial, ho partecipato a questo trucco che vedete, non l'ho fatto per solo il convegno, ma ho fatto anche per voi, però per annunciare sono andato a Rai News per un dibattito che riguarda Unione Europea e anche Rom e Sarkozy e problemi dell'Unione Europea, ma anche annunciare l'iniziativa, quindi vengo direttamente di lì, quindi se qualche studioso dà fastidio questo mio maquillage mi devo scusare. È troppo leggero. È un trucco abbastanza visibile. Allora, voglio sgombrare il campo subito che non diranno hanno dato una relazione una velina, quindi subito mettiamo chiariamo. Allora, io voglio dire due cose essenzialmente. Oggi non voglio essere polemica, non voglio parlare di Bossi, di Berlusconi, legge Bossi-Fini, il Rom, discriminazione, ne parleranno amici qui presenti. Però oggi voglio dire semplicemente una cosa, quello di creare, se possibile, tracciare una idea di un nuovo modello sociale, un nuovo modello di sviluppo sociale del nostro paese. Proprio perché il nostro paese è cambiato, c'è il fenomeno dell'immigrazione e l'integrazione. E come voi vedete, io sono una signora TB italiana acquisita. e questo è una testimonianza innegabile. Allora dobbiamo tracciare un percorso comune per poter poi individuare una coesione sociale rispetto dei diritti umani e diritto delle minoranze del nostro paese. Voglio citare una frase molto importante che ha detto Barack Obama quando due femminicerati religiosi estremisti cristiani hanno minacciato, come poi qualcuno l'ha fatto, di bruciare il Corano. Il presidente americano ha detto: noi siamo tutti americani, siamo tutti un popolo, dobbiamo essere uniti. Noi dobbiamo imparare da loro. Americani hanno tanti difetti, ma hanno anche tante qualità e la capacità di quanto proprio stanno, sembrano essere irrecuperabili, a dare una svolta che può essere utile per tutta l'umanità. Allora, questa frase di essere, anche noi dobbiamo imparare quello di dire: noi non dobbiamo accettare l'odio e la xenofobia, ma dobbiamo essere italiani e individuare un percorso comune come nazione e come società civile. Voglio aggiungere questo, che come economisti ben sanno, c'è le risorse umane. L'immigrato è una risorsa umana. Allora, l'economia vive di risorse, come trasformare un progetto di sviluppo per queste risorse umane che noi abbiamo. Il paese calabrese, in Calabria, che si chiama Reace, ha inventato un modello molto importante che voglio citare perché va presa come un esempio. Quello di un paese abbandonato, che italiani che vivevano, si sono immigrati in Germania, assolutamente abbandonato, è stato trapiantato una comunità di immigrati che sono andati a abitare dentro queste case e hanno rianimato questo paese morente. E adesso il paese è ripreso, e proprio io il 4 ottobre sono invitata per una provincia di Sondrio, in Piemonte, Ovadia, c'è celebrazione di la signora che ha inventato questo progetto, dovrà essere premiata. Allora, siccome noi abbiamo tanti paesi del nostro paese e territori e terreni abbandonati, una idea potrebbe essere quello di dare una comunità di cooperative degli immigrati, e queste risorse umane e le risorse paesaggistiche del nostro paese ripristinare un nuovo modello di coesione sociale e economica e integrazione che abbiamo gran bisogno. Poi voglio dire una cosa, è l'ultima, perché così mi viene ansia di lasciare il posto Melise, Rufini e Manconi, perché abbiamo tre secchioni di lungo rango e sarebbe del tutto inutile e superfluo di farli intrattenere per il loro contributo che ci possono offrire. Voglio semplicemente ricordare che la Lega e la destra parlano tutti i giorni di cambiare la Costituzione italiana come se fosse la prossima minestra da servire a tavola. Allora, nessuno dice che la Costituzione nostra è perfetta e non si debba aggiungere nulla, però consentitemi di una battuta polemica: che Costituzione va cambiata, ma va cambiata persone serene che non hanno problemi con la giustizia. Dopodiché, però, quando no, vabbè, io ho fatto teatro, signori, dibattere uno che ha fatto teatro è un po' faticoso. Allora, devo ingannare la noia perché sennò la gente si annoia. Allora, però un cambio va interdotta e intravista, quello di quanto i nostri padri costituenti hanno creato la Costituzione nostra, le minoranze etniche del nostro paese non erano così presenti e numerosi. Quindi un cambio, cioè aggiungere la Costituzione attuale per una chiara, cioè chiara, come si chiama, dimmi tu, aiutami tu che sei secchione della Camera. No, no, è come si può introdurre un articolo di difesa dei diritti? Sì, modifico costituzionale, però che metti una... chiaro articolo, bravo, perché lui poi sempre li dichiamo, perché io confondo maschile italiano con femminile e lui sa come ci tiene in qualche modo a difesa della sua italianità, però questo ho capito, ma hai detto che parli solo italiano, per quello ci tieni. E quindi bisogna introdurre in modo più chiaro la difesa dei diritti delle minoranze etniche del nostro paese. Grazie. Allora, io procederei così. Intanto vorrei ripetere una cosa, ripetere un passaggio con una piccola variazione. Poi, invece, visto che qui ci sono rimasti comunque tutta una serie di reazioni e non abbiamo dibattuto e ci sono state tutta una serie di appelli ai cambiamenti, alle innovazioni, che riguarda sia la sfera economica, sia la sfera politica, eccetera, eccetera. E io utilizzerei questo tavolo e questa mezz'ora per chiedere ai relatori precedenti e ad altri che si sono aggiunti, ad altri vedo tante persone che potrebbero, per esempio, voglio dire, la conclusione di Anna Pavignano potrebbe introdurre un nuovo intervento di Annelore Homberg. Un appello, una parte, una sintesi di quella straordinaria relazione, non solo economica, di geopolitica, eccetera, di Agostini, Vitaletti, Longobardi, potrebbe essere trasformata in una domanda a Ruffini e a Melis, e vediamo se riusciamo a chiudere in modo simpatico e credo anche intelligente questa sezione di emergenze di identità. Allora, mi ripeto come solo i giornalisti sanno fare, e mi ripeto così. Allora, prima all'inizio ho detto: non vogliamo sostituire noi di emergenze di identità chi per missione politica o istituzionale o per una lunga storia di impegno si occupa normalmente di questi temi. Anzi, vogliamo solo rafforzare la loro azione ripensando insieme a quel che molti di loro hanno già elaborato e fatto. Dicevo, pensieri e azioni molto spesso di straordinario valore. E prima facevo, valga per tutti, l'opera svolta da Luigi Manconi, ma qui adesso ripetendomi direi l'opera svolta da Luigi Manconi, da Shoghri Said, da Ernesto Ruffini e da Guido Mellis, che con la loro conoscenza e il loro sapere smascherano tutti i giorni l'ipocrisia della politica e della cultura che vuol negare identità umana a persone costrette magari a sopravvivere e a morire in carcere nei campi profughi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo per introdurre una domanda, diciamo, inizierei con Ernesto Ruffini. Tu che... per professione ti dovresti occupare, se non capisco male, di fisco, di tasse, di quant'altro. Poi ti ritrovi a perdere nottate, giornate, fuori dai tribunali per difendere chi e batterti contro il mondo. Perché lo fai? Ernesto Ruffini, responsabile di A Buon Diritto. Parlo, mi riferisco alle battaglie per il rispetto della Costituzione e tutti i casi che so che hai difeso di persone, esseri umani ridotti in condizioni davvero disumane dal nostro Stato. E perché lo faccio? Perché penso che ognuno di noi abbia delle passioni, ognuno di noi abbia un lavoro e abbia anche del tempo per coltivare passioni che lo fanno muovere, e poi perché c'ho Luigi Manconi alle costole, devo farlo per forza. E, io volevo agganciarmi a quello che diceva anche Shukri Said. In realtà probabilmente per quanto riguarda la nostra Costituzione, quella che ci hanno consegnato i nostri padri costituenti, non è necessaria alcuna modifica in relazione all'emigrazione, perché tutto quello che si vuole vedere, che si vuole leggere, è già lì scritto. Vengono in mente le parole del nostro presidente Napolitano, che più di una volta ha affermato che i costituenti non potevano risolvere tutti i problemi allora per oggi, ma ci hanno dato gli strumenti per poterli risolvere. E lì, a poter ben vedere, ci sono alcuni articoli che lasciano una traccia su un sentiero che sarebbe sufficiente percorrere. Ho imparato in questi anni di collaborazione con Manconi, con A Buon Diritto, che quando si parla di immigrazione e di immigrati spesso si confonde l'attività che è legata a queste problematiche con un certo buonismo o il sentirsi buoni, solidali. In realtà non è questa la chiave di lettura o il modo di affrontare questi problemi. Quando si parla di immigrazione si parla di diritti, solo di diritti. E quando si parla di diritti bisogna farlo per un senso di dovere nei nostri confronti, prima ancora che degli altri, perché si deve avere la preoccupazione che quando i diritti sono negati a qualcuno potrebbero essere negati un giorno anche a noi. Quindi non c'è nessuna forma di altruismo in questa prospettiva. È stato più volte detto che si nega l'evidenza, più o meno sotto gli occhi di tutti nelle nostre vite, che voler negare oggi nel nostro mondo la migrazione dei popoli sarebbe come vivere in Alaska oggi e negare il problema della neve. È impossibile. Bisogna affrontarla. È un qualcosa di cui nessuno ha una soluzione, però bisogna saperla affrontare. Pino Di Mauro mi chiedeva una piccola testimonianza sulla Costituzione, ed è, beh, la voglio raccontare in questi termini. Con Luigi Manconi l'anno scorso, quando è stato introdotto dall'attuale maggioranza parlamentare il reato di immigrazione clandestina, si è pensato di non andare in vacanza e provare a sollevare nelle aule di giustizia la questione di legittimità costituzionale del nuovo reato che si è introdotto. È stata una battaglia appassionante e educativa per me, che sono un avvocato che, come diceva prima Di Maula, si occupa di altro, che si è scontrato con una realtà impressionante offerta da quelli che dovrebbero applicare la nostra Costituzione, cioè, ovvero i giudici. C'è un qualcosa di diabolico nel reato di immigrazione clandestina. È stata attribuita la competenza a giudicare questo reato a dei giudici che non sono giudici di carriera, sono giudici onorari, che hanno una preparazione fisiologicamente minore di quella dei giudici di carriera, che vengono pagati a cottimo. Più immigrati espellono, più vengono pagati sostanzialmente. Quindi se gli presentano 10 immigrati sono ben contenti di fare 10 udienze. Abbiamo provato a sollevare la questione di incostituzionalità di questa norma sotto diversi profili, poi ci è stata accolta. Il nostro caso ancora non è stato giudicato e speriamo bene, ma non siamo particolarmente fiduciosi, ma insomma speriamo bene, da un giudice di Agrigento, che quindi ha bloccato tutti i rinvii a giudizio degli sbarchi di Lampedusa. Qui a Roma invece mi sono scontrato con giudici che nero su bianco mi hanno respinto l'eccezione di incostituzionalità, perché il principio di uguaglianza tra gli esseri umani non si applica agli stranieri, perché non sono italiani. Ma convinti, perché in effetti non è peregrina, perché la norma dice che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, ma è ovvio che una costituzione di un paese si rivolge ai suoi cittadini, perché altrimenti non è si rivolge la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, si rivolge agli uomini e alle donne. La Costituzione di un paese si rivolge ai propri cittadini. però quel giudice non sapeva, quei giudici erano più di uno, che quella norma non è stata mai interpretata in questo modo. La Corte Costituzionale ha sempre affermato che è una norma che fa parte dei principi fondamentali della persona, i primi 12 articoli della Costituzione si applicano alle persone in quanto tali. Eppure questo è stato scritto. In quei giorni in cui, ed è questa la nota più così che coglie sempre l'attenzione, che una cosa è solo Luigi se mai storcerà il naso, perché sembra che voglio catturare il pietismo di qualcuno, ma in realtà è soltanto per farvi capire quanto della cultura giuridica di questo paese si è perso in questi anni. Una delle persone che ho difeso è un cittadino nigeriano che era scappato dal centro di Lampedusa qualche mese prima di essere arrestato a Roma, fuggendo, come probabilmente farei io se fossi catturato in Nigeria. È stato fermato a Roma perché si era introdotto nel giardino della casa di qualcuno, ovviamente, certamente non per farsi un pisolino, probabilmente cercava di rubare qualcosa o di trovare da mangiare. Ha opposto resistenza ai carabinieri, l'hanno arrestato, quindi è stato sottoposto a un duplice procedimento penale per resistenza a pubblico ufficiale e penale per immigrazione clandestina. Dalle 9 che doveva arrivare in aula per essere giudicato, si è presentato alla polizia penitenziaria ad avvertirmi verso le 3 del pomeriggio. Eravamo in aula ad aspettare per poter celebrare questo processo. Dice: avvocato, se scende lei a convincere il suo assistito, non vuole scendere dall'autoblindo. Entro nell'autoblindo, ripeto, avvocato tributarista, quindi non mi era mai capitato di entrare in un autoblindo. È abbastanza cruda come esperienza. C'è una parte dell'autoblindo che è una cella vera e propria, al di là della quale vedo un ragazzo nero, nudo, ceppi ai piedi e ceppi alle mani, manette alle mani, che si era piangente, muto, cioè nel senso non parlava, non emetteva suoni, ma uscivano lacrime, e che se l'era fatta addosso e che ovviamente non voleva uscire dall'autoblindo. Chiedo conto e ragione di quello che stava succedendo e dice: purtroppo nella colluttazione è successo questo. Riusciamo a mettergli una maglietta, le sue mutande, viene condotto per timore che di nuovo ponesse resistenza in aula con 4 agenti di polizia penitenziaria di scorta, 2 davanti e 2 di dietro, a piedi scalzi, a via Ego Rosetti, ma d'agosto, sull'asfalto, ceppi ai piedi, manette alle mani. Arriviamo in aula, chiedo al giudice di poter liberare l'imputato, perché almeno per celebrare il processo. Il giudice chiede se era comunque garantita l'incolumità dei presenti. I poliziotti, giustamente, gli agenti di polizia penitenziaria, scusate, ha detto che non era garantito, perché non si sa quale reazione avrebbe potuto avere quel ragazzo. Così si è fatto il suo processo in quelle condizioni: ceppi ai piedi, manette alle mani, maglietta e mutande. Iniziamo il processo, il giudice mi ferma, era quello che poi mi ha detto che l'uguaglianza non si applica agli stranieri. Avvocato, indossi la toga, è una questione di rispetto nei confronti del giudice. E quindi mi sono trovato a celebrare un processo con la toga di raso addosso, con i miei drappi, e un ragazzo mezzo nudo e terrorizzato, che ovviamente è stato condannato. Questa è l'Italia di oggi. A me ha fatto paura, molta paura. E penso che sia un sentimento da coltivare e da non nascondere. Anche perché non è questa l'Italia che ci hanno consegnato i padri costituenti, che citava prima Shoghri Said, e non è l'Italia che vorrei consegnare a mia figlia. Solo questo. Allora, io spero sempre nei vostri interventi, domande e interventi, così chiudiamo questo tavolo con un dibattito che dal mio punto di vista merita questa giornata di ricerca. C'è un microfono che gira, quindi se volete potete insomma chiederlo e fare le vostre domande. Oppure intanto chiedo a Melis, a Guido Melis, di raccontarci un po' quello che sta succedendo. C'è stato un accordo l'altro anno tra il nostro Presidente del Consiglio e il signor Gheddafi, un accordo che ha portato già a morire tante persone, vuoi nel deserto, vuoi in mare, un accordo che adesso è stato, provoca altri danni. Prima citavo la motovedetta che il governo italiano ha regalato ai libici e con, che è stata utilizzata per sparare un peschereccio. E poi al di là del fatto materiale, c'è un fatto culturale strisciante che forse è ancora più preoccupante. Ci sono le deportazioni. Che succede in Francia con Melis? Ma comincerei a dire che la politica è molto, si sta dimostrando molto inadeguata, molto silenziosa, molto, molto estranea a quanto sta succedendo. E anzi, se posso fare un'autocritica, dirò che anche personalmente io ho maturato in questi mesi, in questi due anni di legislatura, ho maturato progressivamente la percezione di quanto sta accadendo, perché da cittadino normale, io prima del 2008 facevo il professore universitario, un mestiere che ti dà tanti strumenti di conoscenza naturalmente, per di più io scrivevo sui giornali e quindi forse avevo qualche strumento di conoscenza in più, ma devo dire che non avevo la percezione dell'entità del fenomeno e della sua crudezza e di quanto questo paese fosse profondamente cambiato anche nelle sue fibre interiori, non soltanto nel suo ceto politico. Stando in Parlamento questo progressivamente lo vado acquisendo. Per esempio sulla questione libica devo dire io non ho mai avuto una particolare sensibilità, forse sono stato anche un po' distratto inizialmente. Lo dico qui, lo dico volentieri davanti a tutti, non ho nulla da nascondere. Quando c'è stato il grande dibattito sul trattato, insomma, non è stato un dibattito che mi abbia appassionato, nonostante ci sia stato qualche collega che invece ha acutamente colto fin da quel momento quali erano i limiti anche sul piano proprio della percezione di cos'è il gheddafismo, di cos'è questa strana dittatura che unisce elementi di antica dominio ad elementi di modernizzazione. Il Parlamento è passato su quella pagina ed io con esso in maniera abbastanza distratta. Invece, naturalmente, noi oggi cominciamo a percepire tutta la densità di quella di quell'episodio lì e anche cominciamo a capire quali legami unifichino il regime italiano al regime libico. Ci sarà pure una ragione se Berlusconi ha questi rapporti privilegiati da una parte con Putin, dall'altra parte con Gheddafi. Ci sarà qualche affinità elettiva, ci sarà qualche elemento che non sta nella politica come noi l'abbiamo sempre letta, ma sta in un retrobottega della politica, no? In un background della politica nel quale agiscono altre cose che non sono propriamente leggibili con le chiavi della politica e che hanno a che fare naturalmente con un altro grande attore, con un'altra grande materia che sta dominando la politica di questa legislatura più di quanto non abbia fatto in passato, secondo me, che sono gli affari. Noi siamo diventati una repubblica degli affari. Naturalmente gli affari sono sempre esistiti, non è che io facevo di mestiere lo storico nella vita normale, quindi so benissimo che gli affari sono sempre esistiti, che la corruzione è sempre esistita. Ho studiato addirittura la corruzione del passato, quindi so perfettamente che esisteva perfino ai tempi di Giolitti la corruzione. Ma mi sembra che il segno, abbiamo come superato un limite invisibile in questi anni, no? Siamo entrati, la politica è entrata in una dimensione in cui sembra che sia diventata, ci sia qualcosa di irreversibile. In passato agivano delle controtendenze, agivano degli elementi di moderazione, di misurazione, talvolta anche di correzione di questi meccanismi, no? Mi è capitato di recente di rievocare un famoso episodio di corruzione dell'epoca di Giolitti, quando un consigliere di Stato famoso, perché era anche un grande scienziato politico, viene colto nelle mani del sacco perché ha partecipato a una commissione arbitrale per la costruzione, lo scandalo del famoso palazzaccio, no? Quello che a Roma si chiama il palazzaccio, il palazzo di giustizia di Piazza Cavour. e colto nelle mani del sacco si scopre che si è fatto regalare dall'impresario una palazzina in via Pompeo Magno. È un uomo di Giolitti, tutti si aspetterebbero che Giolitti lo proteggesse, Giolitti lo chiede che venga condannato, insomma. Cioè quella politica aveva ancora uno scatto morale che derivava dal fatto che era legata a un'opinione pubblica e a una costruzione del consenso che esigeva il rispetto almeno formale dell'etica pubblica. Oggi la politica attuale non ha più questo collegamento, forse la nostra società ha perso la capacità di condizionarla, di trasmetterle un imperativo etico e quindi è diventata sostanzialmente politica degli affari. E la politica estera, anche la politica dell'immigrazione, è sostanzialmente politica degli affari e si spara sugli emigrati, sui rifugiati che vengono con questi barconi sul mar Mediterraneo, gli si spara addosso essenzialmente perché dietro ci sono i denari, ci sono gli affari. Questo a me sembra che stia accadendo e devo dire che non vedo grandi segnali di indignazione. Ecco, non mi pare che noi abbiamo oggi nel Parlamento italiano, Luigi mi correggerà perché ne sa più di me, perché la sua esperienza è più antica della mia, ma non mi pare che noi abbiamo nel Parlamento italiano un partito naturalmente trasversale, che passa per tutti i partiti, capace di battersi, di indignarsi prima e di battersi poi in difesa dei diritti degli immigrati di cui parlava Succhi. Non mi pare che esista un'aggregazione di questo genere. Esistono personalità isolate, certamente, rispettabilissime, esistono momenti in cui il Parlamento, una parte del Parlamento riesce a reagire, ma insomma nel complesso quello che domina è un'altra tendenza, che è quella di voltare pagina, di non preoccuparsi di questa grande questione, che è la questione dell'Italia contemporanea, cioè la questione dell'inserimento in un paese a bassissima densità, a bassissima progressività demografica, di apporti che non possono che venire dall'esterno. Perché il problema dell'Italia è questo, che nei prossimi 10-15 anni noi diventeremo inevitabilmente un paese diverso da quello che siamo, cioè un paese nel quale avverrà una grande mescolanza, insomma, inevitabilmente questo succederà, inevitabilmente non ci saranno muri o politiche di difesa della Lega o di altri che potranno impedire questo, sta nella oggettività, diciamo, della storia futura che accadrà. E di fronte a questo grande fenomeno che richiede di essere governato, di essere razionalizzato, di essere favorito, di essere guidato dalla buona politica, noi abbiamo invece l'assurdità più assoluta e una serie di risposte particolari, molto, molto momentanee, dettate da ragioni per lo più elettoralistiche, anche da parte nostra, perché se, come è capitato a me in diverse occasioni, si discute con i deputati del Partito Democratico di alcune regioni del nord di questi problemi, li si trova, a mio avviso, scandalosamente prudenti sulle grandi questioni dei diritti civili degli immigrati nel nostro paese, perché naturalmente scatta un meccanismo. Capisco perfettamente che cosa accade. Io ho fatto una tra le tante inutili interrogazioni che si presentano, ne ho fatto una a un certo punto che riguardava una vicenda, se non ricordo male, del Bresciano, mi pare del Bresciano, di un paesino dove c'era un locale romeno dove si schiamazzava la notte. A un certo punto il sindaco con una scusa manda un'ispezione, scoprono che il gabinetto non è perfettamente pulito e che c'è qualche rimasuglio di liquore in qualche angolo del locale, mentre non tutto è perfettamente a norma igienica, gli chiude il locale, sostanzialmente gli impedisce di riunirsi a questi 300 romeni che gravitavano ogni sabato sera in questo posto, e scoppia naturalmente una polemica con l'associazione romena locale. Io faccio un'interrogazione, alcuni dei miei colleghi di quel posto firmano l'interrogazione, come dopo qualche giorno uno di loro mi dice: ma sai, non era proprio così, in definitiva forse il bagno era davvero sporco, in definitiva forse facevano davvero chiasso. Ma insomma, in quale paese di qualunque regione italiana la gente, riunendosi il sabato sera alle 3 del mattino, 300 persone, non provoca quelle conseguenze? Ecco, questo tipo di atteggiamento è molto diffuso, c'è un'eccessiva prudenza, e questo nasce dal fatto, a mio avviso, insomma, che esiste ormai uno scollamento tra quelli che noi consideriamo dei diritti inoppugnabili e per cui ci indigniamo, no? Le cose che ha detto Edoardo prima ci hanno commosso, ci hanno indignato, no? Credo che non si potesse rimanere indifferenti di fronte a quella descrizione. Però, insomma, tutto questo non entra nel tavolo della politica in quella che è l'attività politica quotidiana. E credo che questo sia un tema, un problema. Insomma, noi finché non avremo una capacità di capire questo grande, immenso problema, di farne il problema del Paese nell'immediato futuro, e di sviluppare politiche adeguate per risolverlo e per guidarlo, ripeto, perché la politica è buona politica quando guida i fenomeni, non quando va alla coda dei fenomeni e si limita a glossarli, a commentarli o tutt'al più a trarne profitto momentaneo. Finché questo non accadrà, noi non avremo una svolta su questo profilo. E quindi, allora, non ci sono, io vedo tante persone che potrebbero intervenire, vedo Andrea Ventura, un altro studioso di economia, vedo altre persone che sono professor Vidaletti, chiederei magari il professor Vidaletti se vuole fare una domanda, oppure se vuole aggiungere o sottolineare una parte, così come il professor Longobardi, di quella, ripeto, fantastica relazione, cioè che è un'analisi economica ma anche un'analisi geopolitica che si lega con tante di quelle cose, di quelle suggestioni che si sono poi sentite tra la Favignano e gli altri relatori. Insomma, io spero ancora, conto ancora in un vostro intervento, anche se i tempi in realtà noi avevamo calcolato 18:30, massimo 19 per scendere giù e dare il via all'altro segmento di Emergenza Identità, che è la mostra. E domani vi ricordo invece che c'è l'incontro con gli autori. Allora, c'è Luigi Manconi. Con Luigi Manconi abbiamo iniziato a litigare praticamente per questo convegno. Lui che diceva: ma scusa, no, cioè, è una situazione quasi di emergenza democratica, cioè al nord gli amministratori fanno delle cose orribili, terribili, si è arrivata alla lesione fisica, si è arrivata, e noi dobbiamo fare un osservatorio, dobbiamo fare qualche cosa di pratico, di concreto, non possiamo stare lì a fare filosofia. Dico, ma filosofia, scusa, ma tu, proprio tu che, cioè, nel senso che ti, insomma, sei studiato, io tutto quel poco che so lo so perché ti ho seguito nei dibattiti, ho letto le cose che hai scritto, eccetera, eccetera. È così possibile rinunciare adesso a fare alla ricerca, a continuare a capire se quella la via intrapresa dalla sinistra per combattere questo degrado umano è quello giusto, oppure se è possibile affrontare con una nuova chiave, con un nuovo metodo di pensiero, con un nuovo pensiero, con una nuova ricerca, con qualche cosa di nuovo che porti fuori la sinistra da questo stallo che è impressionante. E poi ci alzi anche un po' il livello, come dire, del civile del nostro paese. Ecco, volevo sapere da te, da Luigi, che insomma, se hai cambiato idea, oppure se continui a pensare che questi incontri siano inutili, o... Grazie e buonasera a tutti. Non credo assolutamente che siano inutili, evidentemente, ma ti faccio grazia della rappresentazione un po' soggettiva che hai dato della nostra controversia in merito all'iniziativa, ma non è certo importante qui insistere su questo tema. Io ho semplicemente una convinzione a cui sono giunto alcuni decenni fa, addirittura, e il tempo mi ha indotto a rafforzarla. La convinzione è molto semplice: abbiamo certamente bisogno di incontri come questo, abbiamo certamente bisogno di approfondire come l'analisi, la ricerca, l'indagine sociale. Personalmente, avendo interrotto il lavoro teorico e analitico sull'immigrazione qualche anno fa, ho intenzione di riprenderla col prossimo anno, quindi questo dimostra quanto io la ritengo necessario. Ho però un scarso entusiasmo nei confronti dei momenti di verifica e di confronto che riguardino i già convinti. Tutto qui. Io penso che le persone qui presenti, con un'altissima, forse totale maggioranza, fino all'unanimità, siano persuasi di buone idee sul tema. È fondamentale che queste buone idee siano sostenute da altrettanti buoni argomenti, quindi è fondamentale, ripeto, l'analisi e la ricerca, ma il vero problema sta fuori di qui. Il vero problema sta nella società italiana, perché tutte le cose che sono state dette finora sono assolutamente sacrosante e riguardano sia il grande campo del senso comune, della mentalità condivisa, delle idee correnti, sia il pensiero delle istituzioni. Oggi in Italia procede con una rapidità che era difficile prevedere una forma di intolleranza istituzionale che si giova di norme primarie, leggi approvate in Parlamento, e per certi versi ancor più di una normativa secondaria, le ordinanze dei sindaci, che sono la vera questione dell'intolleranza istituzionale che oggi ci viene proposta e che stanno dando vita a una vera e propria forma di xenofobia municipale, di intolleranza federativa e federale, che raggiunge forme parossistiche, esiti grotteschi, ma effetti concreti, materiali di discriminazione. E l'analisi delle ordinanze, proprio le ordinanze dei sindaci al quale ci stiamo dedicando, segnala i tratti di un paesaggio davvero inquietante. Anch'io, partirei da un'esperienza personale, perché aiuta poi a meglio esprimere il significato poi del messaggio che mi preme, il solo messaggio che in questa sede mi preme trasmettere. Tutti sanno che le grandi lotte per i movimenti civili e per l'emancipazione degli afroamericani negli Stati Uniti in genere hanno una data di inizio che è la resistenza individuale della signora Rosa Parks, che nei primissimi anni 60 si rifiuta di abbandonare il proprio posto nell'autobus per cederlo a una persona bianca che lo rivendicava in base a quel regolamento segregazionista che divideva appunto l'autobus per etnie. Quasi nessuno si ricorda forse che le prime forme di intolleranza in Italia iniziano esattamente così, esattamente così. Credo fosse l'89, insomma, fine anni 80, prima anni 90, in rapida successione si hanno una serie di episodi che vanno avanti nel tempo e che segnalano intanto una questione molto importante, che si diffonde dopo aver covato evidentemente un sentimento di diffidenza che può diventare ostilità fino a farsi aggressività in settori della popolazione italiana, e che questa aggressività poi si manifesta nella competizione ancor prima che per il lavoro, cosa che in Italia quasi non abbiamo ancora conosciuto, si manifesta questa competizione per lo spazio e per i servizi. Se ci pensate, tutte le tensioni di ordine etnico, quelle più forti nel nostro paese, ruotano intorno alla gestione degli spazi urbani e ai servizi, mezzi di trasporto e abitazioni. Dopo uno di questi episodi mio figlio mi interroga: ma se io mi trovo in un autobus dove qualcuno sta cercando di espellere uno straniero, che devo fare? Io discuto con lui e suggerisco: intervieni col ragionamento, spieghi perché quell'atto è ingiusto. E poi, siccome intuivo che la cosa diventava interessante, che non era solo la domanda di un adolescente ma alludeva a qualcosa di più, procedo e dico: guardati intorno, vedi se ci sono forme di solidarietà magari non manifeste che però riesci a individuare, cerca cioè di portare dalla tua parte il maggior numero di persone per isolare l'aggressore, e all'aggressore rivolgiti con argomenti razionali. Vabbè, la discussione va avanti per un po', alla fine mio figlio dice: sì, ma se dopo tutto questo lavoro dialettico lo vogliono buttare giù dall'autobus, che devo fare? E io a quel punto mena. Mio figlio già allora aveva una corporatura notevole, però questo episodio a mio avviso allude a quella che io ritengo addirittura una strategia possibile, e che quindi risponde alla domanda di Pino, che, come si fa sempre in questi casi, chiede: ma che deve fare la sinistra? Si sta comportando correttamente? Quale strategia deve adottare? Beh, io intanto penso che le sinistre siano tante, persino troppe, uno potrebbe aggiungere, fino a parcellizzarsi mille soggettività, e quindi non è facile individuare una strategia della sinistra, ma nemmeno una strategia per la sinistra. Ma se io dovessi dire quale dovrebbe essere la strategia delle persone per bene, mi affiderei a una frase biblica straordinaria che esortava a essere astuti come i serpenti e candidi come le colombe. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, siccome noi siamo già convinti e fuori di qui ci sono schiere intere di non convinti, con un ventaglio di atteggiamenti i più vari, che vanno dal timore alla perplessità, alla diffidenza, all'ostilità, all'aggressività e alla violenza fisica, e ho già elencato 6 o 7 possibili atteggiamenti, io credo che questo ventaglio articolato di atteggiamenti, come prima cosa, va allargato il più possibile e va impedito che si riduca a uno. Cioè che il passaggio dalla perplessità o dall'ansia al razzismo esplicito sia un passo facile e che avvenga in un solo momento. Guai a consentire, questa è la vera tragedia di cui vediamo già le prime tracce, guai a consentire che coloro che sono in ansia perché vivono in quartieri esposti, perché temono per il proprio futuro, perché sanno di dover contendere risorse scarse se venissero indotti a diventare razzisti. Cioè, se non si capisse il motivo della loro ansia, non si intervenisse su quel motivo, non si frapponesse un sistema di mediazioni, di politiche pubbliche, di discorsi collettivi che impediscano appunto che l'ansia si trasformi in aggressività, che l'aggressività si faccia vita. Se questo è vero, c'è un problema enorme di politiche pubbliche e di intelligenza sociale. Di questo problema enorme fa parte anche la capacità di modulare il nostro vocabolario. Io ritengo che un certo uso del termine razzista sia sbagliato sotto il profilo strettamente linguistico e ancor più sbagliato sotto il profilo politico-sociale. Che un certo modo, una certa corrività, una certa facilità nel ricorrere a quel termine ha l'effetto di indurre i perplessi a diventare ansiosi, gli ansiosi a diventare intolleranti, gli intolleranti a diventare violenti. Viviamo in un sistema nel quale ancora il termine razzista ha una forza denigratoria quale altri termini mai hanno avuto. Noi dobbiamo salvaguardare il carattere massimamente offensivo di questo termine per poterlo attribuire a chi è veramente razzista e compie atti veramente razzisti. E invece essere sufficientemente intelligenti, astuti come serpenti, per saper rispondere a quelle ansie collettive che trasformano soggetti sociali deboli, esposti, privi di risorse materiali e immateriali, non semplicemente alla propaganda dei razzisti, ma alla mobilitazione alla quale i razzisti li chiamano. Ma se questa indicazione di metodo può apparire eccessivamente così astratta, io penso che in Italia ci sono molte e positive esperienze di politiche pubbliche che hanno perseguito intelligentemente questa capacità di sottrarre l'ansia collettiva alla sua deriva intollerante e razzistica. E contemporaneamente però, ecco il passaggio che io ritengo rischi di essere trascurato, noi dobbiamo essere candidi come le colombe. Quando lo buttano giù dall'autobus, beh, si mena. Cosa voglio dire con questo? Che essere estremamente prudenti e estremamente sapienti nell'elaborare politiche pubbliche capaci di impedire che l'ansia diventi intolleranza, su un punto non deve mai transigere, ed è il punto che stiamo vivendo esattamente in queste settimane e che rimanda alla questione che Ernesto aveva prima evidenziato nel suo intervento. Cioè c'è un punto, c'è un nodo che non consente nessuna mediazione. Allora, cosa è successo in Francia? In Francia quello che la politica pubblica ha messo in atto non è l'espulsione dei Rom, è l'espulsione collettiva dei Rom. Qui c'è un nodo fondamentale, guardate. Cioè, c'è una politica e un diritto piegato perversamente a quella politica che produce una lesione profonda nell'ordinamento giuridico degli stati di diritto. L'ordinamento giuridico degli stati di diritto prevede qualcosa di estremamente tassativo, io vengo sanzionato in ragione del mio personale comportamento, e il mio personale comportamento, come dicono i giuristi, devono avere il connotato della offensività, ovvero deve ledere un terzo o un bene giuridicamente protetto. Quando un provvedimento, qualunque esso sia, in questo caso l'espulsione, riguarda una collettività, una comunità, più persone, un gruppo, una famiglia, lì non c'è altro termine se non quello di, appunto, razzismo. Perché lì la ragione di fondo del provvedimento è l'ostilità verso una comunità, verso un gruppo familiare, verso una qualunque aggregazione di persone. Questo sta accadendo. Questo può accadere in Italia. Siamo vicinissimi a che in Italia accada. Le dichiarazioni del sindaco di questa città vanno esattamente in questa direzione. La scorsa settimana, con le mie orecchie stupefatte, le orecchie, ho udito il sindaco parlare di provvedimenti testuale contro le prostitute, i rom e i vagabondi. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire fare un passo indietro di un secolo e mezzo, quando appunto, prima dello Stato di diritto, si colpiva non l'atto lesivo di un terzo o di un bene giuridicamente protetto, ma si colpiva la condizione esistenziale. Non vieni sanzionato per ciò che fai, ma vieni sanzionato per ciò che sei: vagabondo, libertario, malato di mente, nulla facente, sovversivo, tutte definizioni che non richiamano un'azione, ovvero qualcosa che può essere considerata fattispecie penale, ma uno stato, una condizione, uno stile di vita, un atteggiamento mentale, un'ideologia. Bene, quando ci si avvicina a questo, allora davvero la situazione sta seriamente precipitando. Non sto poi a dire il fatto che il sindaco ha evocato per quei vagabondi il ricorso al trattamento sanitario obbligatorio. Solo l'analfabetismo giuridico, istituzionale, legislativo, amministrativo di un sindaco, che in ultima istanza è il responsabile del trattamento sanitario obbligatorio, può indurre quel sindaco a invocare per il vagabondaggio il trattamento sanitario obbligatorio. Però su queste cose bisogna essere prudenti nelle definizioni, ma vigilantissimi nel seguirle e nel gridare l'allarme. Perché, e finisco, la descrizione fatta da Ernesto è una descrizione che può colpire certamente per la crudezza del ritratto che noi ricaviamo da quella descrizione. Ma guardate che in quella descrizione c'è qualcosa che sembrerebbe molto antico e che invece è terribilmente e tragicamente contemporaneo. Noi oggi, se avessimo la forza, la possibilità, la pazienza e anche i mezzi per scrutare a fondo un segmento estremamente ampio e articolato della nostra società e del nostro sistema statuale, scopriremmo che il corpo del giovane nigeriano è simile a mille altri corpi, che tutti richiamano quel grande concetto arendtiano che è quello della nuda vita. Se non conoscessi Ernesto, penserei che quell'episodio potesse essere inventato, tanto è nella sua crudezza anche metaforico. Quel corpo nudo è simile al corpo nudo di centinaia di persone, migliaia di persone, che voi, se aveste la possibilità, trovereste negli ospedali psichiatrici giudiziari. Trovereste nelle celle di isolamento delle carceri, trovereste nelle camere di sicurezza di caserme, dove dunque il denudamento rimanda a una procedura particolarmente annichilente, che è quella di spogliare l'individuo di tutte le sue protezioni, garanzie e tutele, ridurlo appunto a corpo nudo, dove la privazione dei vestiti, con ciò che comporta di mortificazione e di inoffensività e di condizione indifesa, corrisponde a una privazione di tutele sotto il profilo giuridico e legale. Noi abbiamo visto corpi nudi, tanti in questo periodo. Chi come noi ha seguito vicende di morti verificatesi in ospedali o nelle carceri nell'ultimo periodo, dal corpo di Stefano Cucchi a quello di Giuseppe Uva, abbiamo visto corpi denudati e coperti di lesioni, tracce di percosse, movimenti rapresi, sangue che segnala ferite anche recenti. Abbiamo visto questo, cioè abbiamo visto il fatto che si sta tornando, ed è questo ciò che risulta drammaticamente sorprendente, si sta tornando a una condizione in cui la tutela proprio della vita umana, nella sua essenzialità, nei suoi fondamenti, è compromessa. Nei centri di identificazione ed espulsione, quelli che si chiamavano CPT una volta, così come nelle carrette del mare, noi abbiamo appunto questa restituzione dell'essere umano a una sua condizione primaria. Avevamo pensato che questo appartenesse a un'epoca trascorsa della storia umana, che i conflitti oggi, le mobilitazioni, le lotte e i diritti si giocassero su un piano più avanzato, su un piano più sofisticato. È tutto vero, si gioca su un piano più avanzato e si gioca su un piano sofisticato, ma insieme si gioca su quello che è il livello primario dell'esistenza. Allora, e finisco davvero, allora qui è in gioco appunto il livello di civiltà giuridica, come si dice. Quello che hanno detto Guido, Ernesto, e prima aveva annunciato Shukri, è esattamente il cuore della questione. Noi oggi vediamo tutta la debolezza del sistema dei diritti di cittadinanza. Perché il sistema dei diritti di cittadinanza, non a caso, riguarda i cittadini. Nel nostro paese cresce il numero dei non cittadini, che non sono solo gli stranieri non diventati e che mai diventeranno italiani, ma sono fasce crescenti di popolazione. Sono i non cittadini che stanno negli ospedali psichiatrici giudiziari, sono i non cittadini che stanno, in una parte di esse sicuramente, nelle carceri. Allora, la questione è quella dei diritti fondamentali della persona. È tutto qui, quello dei diritti fondamentali della persona. Perché è così importante la vicenda dei Rom? Perché chiama in gioco i diritti fondamentali della persona. Tra questi diritti c'è quello alla libertà di movimento. Ed è un diritto altrettanto importante quanto quelli che stanno nel pacchetto essenziale che formano l'identità umana. Allora, e finisco proprio su questo punto, la Costituzione italiana ne parlavamo sottovoce un attimo fa, ma non per disturbare, però per verificare una cosa, è vero che parla dei cittadini, ma per esempio l'articolo 32, quello relativo alla salute, parla di individuo. E qua e là nella Costituzione si parla di persone e di individuo, proprio perché c'è stata un'intuizione straordinaria che vedeva come la cittadinanza, grande conquista dell'epoca contemporanea, non era la chiave per risolvere tutti i problemi giganteschi che l'umanità deve affrontare. Oggi si torna a parlare di diritti fondamentali della persona e se ne parla. Non per l'Afghanistan soltanto, se ne parla qui, ora, per Ponte Galeria, provincia di Roma. Grazie. Allora, abbiamo consumato abbondantemente la mezz'ora che gli autori ci hanno di tolleranza che ci è stata concessa dagli autori. Io ringrazio tutti, ringrazio Luigi, Ernesto, Guido, Sciucri e tutti voi, e come giornata di ricerca l'appuntamento è l'anno prossimo, e invece per il buffet l'appuntamento è fra qualche minuto qui giù, la mostra sulla soglia all'immagine. Grazie.